fatto in ver per te, sembra fatto in ver per te. Guarda qua. Sì, mio cuore. Guarda qua. Ora è più bello. Ora sì che io sono contenta. Sì, mio cuore, ora è più bello. Sembra fatto in ver per te. Susanna, è la stessa, che Susanna è la stessa, si vede, stessa si vede.